morning we talked about what the Buddha means by right awareness. Stamani abbiamo parlato di quello che il Buddha intendeva per la retta consapevolezza. And we had the image of a child driven by curiosity. E abbiamo visto questa immagine del bambino spinto dalla curiosità. Then we talked about how these mental states come up which take us away from our insight meditation. E poi abbiamo visto come ci sono questi stati mentali che ci portano via dalla nostra meditazione di insight, which we call the hindrances, the obstacles, che noi chiamiamo hindrances, gli ostacoli. And we need to be skillful, we need to know how to deal with them. E bisogna essere abili e sapere come trattarli. And we also discussed what it is we're actually investigating. E abbiamo anche discusso cosa è che si deve veramente investigare. What the Buddha called the characteristics of existence. Quelle che il Buddha chiamava le caratteristiche dell'esistenza. So remember, it's the process of desiring, how we create suffering for ourselves. Quindi, vi ricordate, c'è il processo del desiderio, di come creiamo la sofferenza. Mm-hmm. And there's the impermanence. E poi c'è l'impermanenza. Radical impermanence. Un'impermanenza radicale. Everything arises and passes away, that's it. Full stop. Tutto sorge e poi svanisce, punto. And this whole idea of not self. E c'è questa idea del non sé. Which we begin to discover by recognizing that everything we're aware of is an object of awareness. E che noi cominciamo a scoprire pensando che tutto ciò di cui noi siamo consapevoli è un oggetto della consapevolezza. Mm. So there's a disconnect. C'è una disconnessione. Mm. And also the fact that in certain situations, like when we're meditating, we're not in control of the mind or the heart. E anche il fatto che in certe situazioni, mentre stiamo meditando, noi non siamo in controllo della mente e del cuore. And so we begin to realize that the mind and our emotional life have their own engines. E quindi cominciamo a capire che la mente e la nostra vita emozionale ha il suo proprio motore. Now, we also talked about the way concepts distort what we are actually experiencing. E poi abbiamo parlato del fatto che i concetti in qualche modo distorgono ciò che noi stiamo di cui facciamo esperienza diretta. Now there's an even deeper distortion which comes from our culture. Culture? A deeper distortion which comes from our culture. Ah, e c'è anche una più profonda distorsione che viene dalla cultura, dalla nostra cultura. It's just the biases of our culture when we approach Buddhism. Bias. Bias, prejudice, bias. È come sì, un pregiudizio della nostra cultura riguardo a ciò che si Buddhism. Al buddismo. Okay. And I want to talk about these first, and then to talk about the actual technique that we're using, which will help us to break through these biases. E allora voglio parlare prima di questo e poi della tecnica che ci permette di andare di aggirare questa distorsione. Mm. So there are three or four, but the main are three ways in which we receive Buddhism, which sometimes distorts the teaching. Ci sono tre modi in cui vediamo il buddismo che qualche volta distorgono l'insegnamento. So the first one is through science. Il primo è la scienza. Mm. It's not that science doesn't tell us about the world. Non è che la scienza non ci dice di com'è il mondo. But there are those people who think that science is the only way you can know something truly. Ci sono persone, il problema è che ci sono persone che pensano che la scienza è l'unico modo in cui si può conoscere veramente il mondo. If you can't experiment it, if you can't repeat the experiment, then in a sense it doesn't exist. Se non puoi fare un esperimento e ripetere l'esperimento, in un certo senso questa cosa non esiste. Ah. So for instance, the Buddha did not think about setting up an experiment about Vipassana. Ad esempio, il Buddha non ha mai pensato di mettere su un esperimento riguardo alla Vipassana. That he had a group of people who practiced the Four Noble Truths and Vipassana. E come dire che lui aveva un gruppo di persone che praticavano le quattro nobili verità e la Vipassana. A group of people who had the Ig Noble Truths and Vipassana. E un gruppo di persone che invece aveva le ignobili verità e la Vipassana. And a group of people that had no noble truths but just practiced Vipassana. E un altro gruppo di persone che non aveva nobili verità, che non aveva affatto queste nobili verità e però praticava la Vipassana. And through that experiment he decided that Vipassana was good. E attraverso questo esperimento lui decise che la Vipassana era una buona cosa. So when somebody approaches the teaching as a scientific materialist, e quando qualcuno si avvicina agli insegnamenti col materialismo scientifico, then at least two teachings are denied as being truthful. A quel punto almeno due insegnamenti sono negati. The first one, of course, is rebirth. Il primo, naturalmente, è quello della rinascita. Which is impossible to prove scientifically, I think. E che è impossibile provarla scientificamente. And the second one is Nibbana. E il secondo è il Nibbana. Which the Buddha said is completely outside human experience. Perché i buddhisti dicono che è completamente fuori dall'esperienza umana. So how are you going to prove that Nibbana is an experience? E come fai a provare che il Nibbana è un'esperienza? So when somebody says to such a person that these I've experienced them, their reply will be, well, it's just in your mind. Quando qualcuno dice a una persona così, che queste sono cose che vanno, di cui ho fatto esperienza, questo vi dirà, sì, ma solo nella tua testa. When it comes to rebirth, some say that the Buddha taught it because, well, everybody sort of generally believed in it. E parlando della rinascita, qualcuno pensa che il Buddha la insegnò perché, beh, quasi tutti ci credevano. But what would you think of a teacher who was teaching something because other people believed it, but they didn't believe it themselves? Ma cosa pensereste di un maestro che insegna qualcosa perché tutti lo credono, ma lui non ci crede per se stesso? The problem with seeing the mind as the brain is that the connection between the physicality of the brain and the inner experience we have of the mind, they can't make that connection. Il problema di vedere la mente come il cervello è che l'esperienza interna che noi abbiamo e quella fisica non si connettono. Sì. So when we are sitting, we experience emotions and thoughts. Quando siamo seduti, noi abbiamo l'esperienza delle emozioni e dei pensieri. Ah, we don't experience chemical changes and electrical signals in the head. Noi non facciamo non abbiamo l'esperienza diretta dei cambiamenti chimici e dei segnali elettrici che sono nella testa. So this is known, some of you will know, this is known as a hard question. Hard, difficult question. Questo qualcuno la può chiamare una domanda difficile. Now, if you read the scriptures, the Buddha is quite clear that we are made up of three parts. Se leggete le scritture, il Buddha è abbastanza chiaro nel dire che we're made up of three parts. Tre parti. Siamo fatti di tre parti. Parts. Ok. Siamo fatti di tre parti. Ecco. So, that's it. The physical body. Il corpo fisico. The mind is of another type of energy. La mente è un altro tipo di energia. And then there is this Nibbana, this Buddha nature inside us. E poi c'è il Nibbana, la natura del Buddha dentro noi. Ah. So now, the important thing is not to take a position. L'importante è non prendere una posizione. Ah, you see, why come to a conclusion? Perché arrivare a una conclusione? When we don't know for certain for ourselves. Se non lo sappiamo di sicuro noi stessi. Ah. I was on a train once, and some rugby fans joined and sat opposite me. Una volta stavo su un treno e un fan del rugby si sedette davanti a me. And he said to me, "Are you a Buddhist monk?" E mi disse, "Tu sei un monaco buddista?" I said, "Yes." Io ho detto sì. He said, "I don't believe in reincarnation." E lui disse, io non credo nella reincarnazione. So I said to him, but do you know whether there is or not? Do you know whether there is or not reincarnation? Ma lui gli ha detto, ma tu sai se c'è o non c'è la reincarnazione? And he said, no. E lui ha detto no. So I said, why do you come to a conclusion? E perché sei arrivato a questa conclusione? Ah, and his friend said to him, yeah. Why did you come to a conclusion? E anche il suo amico gli disse, ah, beh, perché sei arrivato a questa conclusione? You can only have this conversation if you have some beer in the system. Puoi fare questa conversazione solo se nel tuo sistema c'è della birra. Ah. So the important thing is to remain, as it were, humble. E l'importante è rimanere umili. Ah. Just to be in that place of don't know. Rimanere in questa posizione del non so. Ah. And that allows us to receive information which, if we take a position, we just ignore or deny. E questo ci permette di ricevere delle informazioni che, se noi invece prendiamo una posizione, le possiamo ignorare o negare. The out of body experiences are well known in medicine by doctors and people. Le esperienze extracorporee sono ben conosciute nella medicina dai medici. Out of body experiences where it's not possible for the person lying there unconscious to know what was actually going on. Situations where the person lying there. Ci sono state delle situazioni in cui c'erano delle persone che erano incoscienti e non potevano sapere che cosa succedeva intorno a loro. And there are also, if you go on YouTube, many examples of rebirth which are difficult to explain. On YouTube? Anche su YouTube si possono vedere delle esperienze di rinascita che sono difficili da spiegare. But even these we do not have to believe. Ma anche qui non si deve per forza crederci. It is a case of being open-minded, open-hearted. È il caso di rimanere con la mente aperta e il cuore aperto. We'll only know for sure when we personally have that experience. Noi lo sapremo di sicuro solamente quando personalmente avremo questa esperienza. There is also another moral problem with scientific materialism. which is not Buddhistic. C'è anche un altro problema morale col materialismo scientifico che non è buddhistico. Everything in the science understanding is conditioned. Tutto ciò che c'è nella concezione scientifica è condizionato. So you are conditioned to do things. Sei condizionato a fare cose. Experiments have shown that we decide things in the mind before we become aware of them. Ci sono degli esperimenti che hanno dimostrato che noi decidiamo delle cose nella nostra testa prima di diventarne coscienti. Ah, but from a Buddhist point of view, this is the unaware life. Ma da un punto di vista buddista questa è una vita non consapevole. There are many intentions that we don't need to be aware of. Ci sono molte intenzioni che noi non abbiamo bisogno di essere consapevoli. Ah, I don't have to be aware of the intention to open the door so I can get into the other room. It's habitual. Non ho bisogno di essere cosciente dell'intenzione di aprire la porta per entrare nell'altra stanza, perché è una cosa abituale. Ah. But what we discover through our meditation, going very slow, is that I can be aware of even the slightest intention that arises in the mind. Ma quello che si scopre attraverso la meditazione, l'andare molto piano, è che si può diventare coscienti di anche la più piccola intenzione che insorge nella mente. Ah. So this means that we do have a choice. E questo significa che noi abbiamo una scelta. Ah. If we couldn't see the intention, if we're always driven by the intention, then we're living completely conditioned lives. Se noi... if we're always driven by an unconscious intention. Ah, sì, sì. Se noi fossimo sempre mossi da intenzioni inconsce, noi vivremmo una vita completamente inconscia, senza consapevolezza. This sort of understanding, behaviorism. Questo è il comportamentismo. Yeah. Ah, comportamentalismo. No, non conosco questa. Ah. Whatever. Comunque. Comunque. There was a case in America of somebody who murdered. C'è stato un caso in America di qualcuno che murdered. Fu ucciso. Yeah. And the lawyers argued that he had no choice. L'avvocato disse che lui non aveva scelta. He was conditioned by the society, by the family he was in, by the conditions that he found himself in. Egli era condizionato dalla società, dalla famiglia, dalle condizioni in cui si era trovato. And the court found him not guilty. E la corte lo dichiarò non colpevole. Ah. So one of the problems of believing, of understanding our lives to be completely conditioned, is that you don't need to take responsibility for your actions. Quindi una cosa che avviene quando si pensa che la nostra vita sia completamente condizionata è che non dobbiamo prenderci responsabilità delle nostre azioni. This is not the case with the Buddha. E questo non è il caso del Buddha. The Buddha did not teach free will. Il Buddha non ha insegnato il libero arbitrio. But through discernment, through understanding, we can see that whenever a choice comes up, which is the better choice. Ma il fatto che attraverso il discernimento e la comprensione noi possiamo scegliere, quando c'è una scelta, qual è la scelta migliore. That's one particular way that we look at life, through this idea that science is the only way we can know something to be true. Allora, questo è il modo in cui guardiamo alla vita dal punto di vista della della scienza, quando pensiamo che la scienza è l'unico modo di descrivere il mondo. The second one is psychotherapy. Il secondo è la psicoterapia. The aim of psychotherapy is to help somebody achieve a healthy sense of self. Lo scopo della psicoterapia è di aiutare le persone a raggiungere un senso del sé salutare. They deal with trauma, with specific mental illnesses. Quindi si rapportano al trauma e a specifiche malattie mentali. With relationship problems. Problemi di relazione. So, as you know now, mindfulness, the Buddhist practice of insight meditation, is used as a psychotherapeutic intervention. E sapete che oggi la mindfulness, cioè che è tratta dalla meditazione di insight buddista, viene usata come una psicoterapia. Mm. And it's very successful to, I believe. Ha molto successo, io credo. Ah. But if we practice in order to help ourselves with our psychological problems, we miss the true aim of the Buddha's teachings. Ma se noi pratichiamo per in order to what did I say? Sì, se noi pratichiamo allo scopo di guarire i problemi psicologici, ci perdiamo il vero scopo del buddismo. I can't remember what I said anyway. No, non ricordo quello che volevo dire. And now when I'm trying to think of what I'm going to say next, it's doubly important. E ora sto pensando cosa devo dire alla prossima frase. We missed the Buddhist teaching. Yes. The aim of mindfulness practice in psychotherapy is to help to deal with these various symptoms. E lo scopo della mindfulness come una psicoterapia è di trattare certi sintomi. Now, if you in your practice are trying to analyze yourself, then you miss the point of the practice. Se tu nella pratica cerchi di analizzarti, ti perdi il vero scopo della pratica. Ah, and because I am deluded, trying to psychotherapeutize myself, the answer I will get will be deluded. E se io parto dal fatto che io sono dentro un'illusione e uso la questa psicoterapia per psicoterapizzarmi, avrò un risultato che è sempre dentro all'illusione. All I will do is make myself more and more mad. Quello che succederà è che mi farò diventare sempre più pazzo. Ah. So it's often the case that meditators sit and suddenly they might feel very depressed. È sempre questo il caso dei meditanti che siedono e si sentono sempre più depressi. Ah. And so because of psychotherapy, they ask, you see, why am I depressed? E allora, a causa della psicoterapia, si chiedono perché sono depresso. And then the mind starts searching. E allora la mente comincia a cercare. Ah, my mother. mia madre. All my problems stem from my mother. Tutti i miei problemi vengono da mia madre. So, But knowing that, does that help the depression? E sapere questo non aiuta la depressione. No, I'm still depressed. Io sono ancora depresso. Still depressed. So, in Buddhist Vipassana terms, seeking history is a complete waste of time. Nella concezione del buddismo, della Vipassana, cercare nella storia del passato è una completa perdita di tempo. Because whatever happened in the past has this product, has produced this product. Qualunque cosa sia successo nel passato ha prodotto questo prodotto. Ah, so the heart is in a state of depression. Quindi il cuore è in uno stato di depressione. Ah. How does the heart, how can we help the heart heal itself? Come possiamo aiutare il cuore a curarsi da solo? Ah. It's by allowing it to speak to us, to come into our consciousness. Lasciando che il cuore ci parli, che entri nella nostra campo di coscienza. And it exhausts its turbulent energy. E che estingua la sua turbolenza interna. Now, we don't really understand this until we find out what an emotion is before you give it a name. E noi non lo possiamo capire fino a che non sappiamo che cosa è veramente un'emozione prima di dargli il nome. So, whenever you feel an emotion, whether it's happiness, love, depression, anxiety, quando avete un'emozione, che sia l'amore, la depressione, l'ansia, allow it to express itself as a feeling. Lasciate che si esprima come una sensazione. Don't think about it. Non ci pensate. Now your first noting word may be happiness, anxiety. La prima nota mentale può essere felicità, ansia. But then you go into the emotion. Ma poi entrate dentro l'emozione. To feel its texture. Per sentire la sua struttura. And when you go into there, this idea of happiness and anxiety begin to disappear. E quando cominciate ad entrarci dentro, quest'idea di ansia o di felicità comincia a scomparire. What the noting word you begin to use is lightness, heaviness, warmth, turbulence. E quindi comincerete a usare delle note mentali come luce, calore, pesantezza, turbolenza. They're all very physical words. Quindi sono parole molto fisiche. And then we lose this idea that these feelings within us are actually mental emotions. E quindi si perde questa concezione che questi stati sono collegati alla mente, insomma. What I mean by that is that we have a concept of an emotion. Quello che voglio dire è che noi abbiamo un concetto di un'emozione. And this concept will have a reaction, will make us have a reaction. E questo concetto ci fa avere una reazione. So if I feel depressed, then I get depressed about being depressed. Se io mi sento depresso, allora diventerò depresso perché a causa di questa depressione. Sì. What we're trying to do always is to deconstruct what we're experiencing. Quello che cerchiamo sempre di fare è di decostruire la nostra esperienza. Now, in order to do that, you have to take a very different position from a psychotherapy position. Per fare questo bisogna prendere una posizione molto diversa dalla posizione dello psicoterapeuta. Ah, you have to objectify everything. Devi oggettificare tutte le cose. Ah, and in so doing you're discovering something in us which is able to perceive and to feel, but is not what it is actually perceiving and feeling. E nel fare questo ci si accorge che c'è qualcosa dentro di noi che è capace di percepire e di sentire e che non è quello che viene percepito e sentito. Ah. And this takes us to the real purpose of our meditation. E questo ci porta al vero scopo della nostra meditazione. Which is to discover something in us which is not the body, the mind or the heart. Che è di scoprire che c'è qualcosa in noi che non è il corpo, la mente e il cuore. In fact, in the Buddha's teaching, it is simply not of this world. Not? Of this world. Si dice che nell'insegnamento buddista si dice che non è di questo mondo. Ah, it is not physical, it's not mental. Non è fisico, non è mentale. Ah, so... that's the aim of our vipassana. Questo è lo scopo della vipassana. And as we begin to realize that just by allowing the heart to manifest its turbulences, that's the process of healing. E come cominciamo a capire, lasciando che il cuore manifesti le sue turbulenze, questo è l'inizio del processo di guarigione. Ah. So this is the distinction between psychotherapy and vipassana. Questa è la distinzione tra la psicoterapia e la vipassana. So there's no reason why psychotherapy cannot assist us, cannot help us. Non c'è una ragione per cui la psicoterapia non ci possa aiutare e assistere. Mm, but our aim is different. Ma il nostro scopo è diverso. Ah. We want to experience the unconditioned. Noi vogliamo fare esperienza dell'incondizionato. So we'll come to that in a minute. Allora lì ci arriviamo tra un minuto. And the third distortion or the third bias. La terza distorsione is romanticism. È il romanticismo. So remember that romanticism was a reaction to industrialization. Ricordate, il romanticismo fu una reazione all'industrializzazione. And to the very rational philosophy of that time. E alla filosofia molto razionale di quel tempo. People like, well, Kant, the German. Persone come il tedesco Kant. Ah, so the romantics wanted to get back to nature. I romantici volevano tornare alla natura. The industrial revolution had caused a separation between human beings and the world they lived in. La rivoluzione industriale aveva portato una separazione tra gli esseri umani e il mondo in cui vivevano. Ah, there was a sense of alienation, is what they call it. C'era un senso di alienazione. Mm. So the romantics, again, it was... I think mainly the German philosophers, Novalis, people like that. Era un romantico, was he a romantic? The German philosopher. Il filosofo tedesco Novalis. Novalis, for instance. They said to go back into nature and to be overwhelmed by its beauty. Dicevano di tornare alla natura e di essere sopraffatti dalla sua bellezza. And to begin to realize that we ourselves are a product of nature. E cominciare a capire che noi stessi siamo un prodotto della natura. And that this experience would be so overwhelming at times that we would absorb into this sublime state of mind. E questa esperienza poteva essere così sopraffacente in certi momenti che noi potevamo assorbirci in questo stato mentale così bello and sublime, you see? But they realized that you could only do this for a short time. Ma si poteva fare solo per un breve tempo. And they didn't deny science. E poi anche loro non negavano la scienza. They said that there was no, there didn't seem to be, it was impossible for a human being to know the reason as to why this cosmos existed. Loro pensavano che era impossibile per gli esseri umani sapere la ragione per cui questo cosmo esiste. And I think I'm right in saying most of them thought that you only had one life and then you disappeared. E penso che la maggioranza di loro pensava che abbiamo una vita e poi si scompare. Now, when we come to meditation, we are unwittingly trying to become happy. Quando si parla di meditazione, si arriva alla meditazione, noi stiamo cercando di diventare felici. One of my teachers, Sayadaw Upandita, went to America. Quando uno dei miei maestri, il Sayadaw Upandita, andò in America, one of his students, a woman, said to him that she was so happy that he had come. E uno dei suoi studenti, una donna, gli disse che era molto felice che lui era venuto. And he said something in Burmese. E lui disse qualcosa in birmano. But the translator did not translate it. Ma il traduttore non lo tradusse. So later on she went to the translator and asked him, you know, what did he say? Dopo lei andò dal traduttore e disse, ma che cosa aveva detto? He said, I'm not come to make you happy, I've come to make you aware. Lui aveva detto, io non sono venuto per farti felice, ma per farti consapevole. Now, that might seem a little hard, but it's to the point. Sembra un po' duro, però questo è il punto. There is a process of purification of the heart. C'è un processo di purificazione del cuore. But this takes, obviously, a long time. E naturalmente questo prende un sacco di tempo. Now, again, if we make happiness our aim, then we miss the purpose of our meditation. If we make happiness our aim. Se noi facciamo della felicità il nostro scopo, noi anche qui perdiamo lo scopo della meditazione. And it's good to recognize that emotions come and go. È bene riconoscere che le emozioni vanno e vengono. Sometimes we feel happy and sometimes we don't feel happy. A volte ci si sente felici, a volte no. So we have to take this position which is above the process of the heart. Bisogna prendere questa posizione che sta sopra ai processi del cuore. Now it's true to say that in the end there is no negative feelings coming from the heart. The heart is purified. Bene sapere che in fondo non ci sono stati negativi che vengono dal cuore. Il cuore è puro. So we say that the Buddha's heart lives in some form of love. Si dice che il cuore buddista vive in qualche forma di amore. By which we mean when the Buddha is in connection with people, he has love, compassion or joy depending on the situation. Cioè questo significa che in connessione con le persone dipende a seconda delle situazioni ci può essere amore, compassione o gioia. And any of the other virtues like gratitude. È una qualsiasi delle altre virtù come la gratitudine. And when the Buddha is by himself, he lives in a state of equanimity. E quando il corpo è da solo, invece, sta in uno stato di equanimità. So this is the Buddha heart. The Buddha heart. E questo è il cuore del Buddha. But if we make that our aim, then we miss the true point of our practice. Ma se noi facciamo di questo il nostro scopo, ci perdiamo il vero punto, il vero scopo della nostra pratica. Which is to experience the transcendent state of Nibbana. Che è di fare l'esperienza dello stato trascendente del Nibbana. Now, how can we get a some sort of indication as to what that might be? E come possiamo avere qualche indicazione di ciò che potrebbe essere? Ah, so now in your meditation, when the mind, when your attention is fairly still. Allora, durante la meditazione, quando l'attenzione, quando la mente è ferma. Fairly, you know, pretty still, abbastanza. Sì. Everything is generally quiet. E tutto è abbastanza quieto. And perhaps you're just noting the breath, the rising and falling of the abdomen. Forse stai notando che il respiro sale e scende nell'addome. Just become more aware of the sense of the observer, the feeler. Semplicemente diventa più consapevole di questo senso dell'osservatore, di colui che sente. So usually it's up here in the head, that you have a sense of looking down or feeling from this place. Normalmente sta su nella testa, c'è una sensazione come di guardare giù alle sensazioni dall'alto. Sì, vero? Sì, sì. Ah, grazie. So when that is clear to yourself, ask yourself, right, what is it, what's it like to be this watcher, this feeler? Quando siete a questo punto, chiedetevi che cosa significa essere questo osservatore, questo. What does it feel like? Come ci si sente a essere questo osservatore e colui che sente? And if you can, you have to be very, very quiet, very still. Dovete essere molto quieti, molto fermi. As it were, look into the observer. È come se si guardasse dentro l'osservatore. As if you were looking at yourself in a mirror. È come se vi guardaste alla vostra faccia a voi stessi in uno specchio. And ask yourself, what's it made of? E vi chiedeste di cosa è fatto. Or what is in that awareness? Oppure anche che cosa c'è dentro a questa consapevolezza? Is there any sensation? C'è qualche sensazione? Are there any emotions? C'è qualche emozione? Are there any thoughts? O pensiero? So this is an indication. Questa è un'indicazione. That whatever is looking is not the body, heart and mind. Qualunque sia la cosa che guarda, non è il corpo, mente, cuore. So now this technique that Mahasi Sayadaw developed is meant to drive us to that point of understanding. Questa tecnica che è stata sviluppata da Mahasi Sayadaw intende proprio portare a questo punto, alla comprensione di questo punto. So the first is to go really slow. Quindi la prima cosa è di andare veramente lenti. Now, one point is when you want to go through a door. Un punto è quando si vuole attraversare una porta. So you're standing in front of the door, you see? Sei davanti alla porta. And you can hear the intention of wanting to go through the door. E puoi sentire l'intenzione di voler passare la porta. So you make that conscious, intending to open the door. E quindi la rendi cosciente, intenzione di aprire la porta. And then you can see that this intention is empowered. E allora si può vedere che questa intenzione gli viene dato potere. Because the hand moves. Perché la mano si muove. And so as the hand moves, you're noting where it is moving, moving. And mentre la mano si muove, tu stai notando, muovere, muovere. And your attention is right there in the feeling of movement. E la tua attenzione è proprio lì, nella sensazione del movimento. And then as you touch the handle, you see. E come tocchi la maniglia. So you begin to press against the handle exactly the force that the spring needs. E allora cominci a pigiare sulla maniglia per quella forza che è necessaria per via della molla che c'è dentro. Ah, perfect efficiency. È un'efficienza perfetta. And then you push the door open. E poi spingi e apri la porta. Ah, pushing, pushing. Spingere, spingere. See? And then you release the handle. E poi lasci andare la maniglia. Ah? And then you walk through the door. E cammini attraverso la porta. Ah? Intending to turn. E intenzione di girare. So you turn. E allora ti giri. And then the process again. Intending to close the door. Ah, e poi ancora il processo, intenzione di chiudere la porta. Now, you don't, if there are people waiting, don't do that. Because ora, se ci sono persone che aspettano, non lo fate. Yeah. Just be generally aware of opening and closing the door. Siate generalmente consapevoli di aprire e chiudere una porta. But wherever you can during the day, if you can go really slow and just see that process. Ma tutte le volte che potete durante il giorno, andate veramente piano e guardate tutto il processo. Mm. One of the distinctions we have to make is between an intention, a desire, and an action. One of the distinctions. Sì, two things, the intention and the action. The distinction. Sì, una cosa di cui dovete rendervi conto è la distinzione tra l'intenzione e l'azione. In Buddhist psychology, it is very important to know the difference. Nella psicologia buddista è molto importante vedere la differenza. So long as something is a desire, nothing has happened. Fino a che qualcosa è solo un desiderio, non succede niente. And therefore there's no consequence. E quindi non ci sono conseguenze. But as soon as the desire is activated, then there are consequences. Ma nel momento in cui il desiderio è attivato, allora ci sono le conseguenze. Ah, so even in the mind, an idea might come up in the mind, and you're aware of it. Anche nella mente ci può arrivare un'idea e tu diventi consapevole di quest'idea. At that point, you can either say, I won't think about it, or I will think about it. A quel punto tu puoi dire due cose. Io voglio pensarci o io ci penserò. No. Non ci penserò. I won't. Yeah. Ah, okay. There's two things. And upon that decision, there are consequences. E a seguito di questa decisione ci sono conseguenze. So it's the same with an action. Sorry? It's the same with an action. Lo stesso con un'azione. Ah, so if you, for instance, there's a desire for another biscuit. Se per esempio hai il desiderio di un altro biscotto. There are some left on the plate. E qualcuno è rimasto sul piatto. So now you have a choice. Ho una scelta. Will I take the biscuit or will I not? Lo prenderò il biscotto o non lo prenderò? Whichever way you decide, there are consequences. E in ogni modo in cui tu decidi ci sono conseguenze. So we have to make a distinction between the desire and an action. Allora bisogna fare una distinzione tra il desiderio e l'azione. The action is conditioning. L'azione è condizionante. Ah, okay. In the practice we go slow, we note these conditions, we note our intentions as much as we can. E quindi nella pratica si va piano e si notano le intenzioni il più possibile. And you'll be surprised, the more intentions that you can become aware of, the more your sense of being here is strengthened. E sarete sorpresi nel nello scoprire che più sono le intenzioni di cui voi diventate consapevoli e più il vostro senso di essere qui aumenterà. Mm. And so now finally there's this process of noting. E alla fine c'è questo processo delle note. Notare. Mm. The noting is there are two reasons for noting. Ci sono due ragioni per notare. The first one is to keep this intellectual mind occupied. Il primo è di tenere la mente intellettuale occupata. So if this intellect is just noting what's being experienced, it doesn't wander. Se l'intelletto è impegnato nel notare quello di cui si fa l'esperienza, non divaga. Mm. But the other is that as you note, it makes it clear to you that what you're looking at is an object. E l'altro è che nel processo del notare si chiarifica ciò che è l'oggetto. Mm. So for instance, if you have some aching in the knee and you say pain, pain. Se ad esempio abbiamo un dolore nel ginocchio e si nota dolore, dolore. Ah, it's as though you're pointing to it. È come se si puntasse il dito verso questo. And even in the mind, if there's an image and you say imagining, imagining. E anche se nella mente c'è un'immagine, si nota immaginare. So, through the noting, we're always separating out from what we're experiencing. E quindi attraverso il notare ci separiamo da quello che di cui stiamo facendo esperienza. Now, this is only the first position. It's the first position. Questa è la prima posizione. This is only to stabilize the looking. È solo per stabilizzare la visione. Ah, then you must go towards the object. Dopo devi andare verso l'oggetto. Mm? And get very close to the object. E andare molto vicino all'oggetto. Huh? So that this noting becomes less and less important. E in modo che questo notare diventa sempre meno importante. So driven by curiosity, there comes a point where you absorb into the looking, the experiencing. E spinto dalla curiosità c'è un punto in cui ti assorbi dentro il guardare nell'esperienza. So there's no time for noting, it stops. E non c'è tempo di notare, si ferma. Si ferma. Huh? So that's your real vipassana right there. E lì laggiù c'è veramente la vipassana. Mm. See? So be careful, the noting, don't use the noting to push something away, you see. Pain, pain. Ah. E state attenti a non usare le note mentali per spingere via qualcosa. Dolore, dolore. Ah, so you're pulling away from it, you see. E così vi tirate via da quello. You want to use the noting to get close to it. E invece volete usare le note per andare più vicino a questo. And the noting has to be quite deliberate. E il notare deve essere assai deliberato, yeah. Cioè, volontario, insomma. If it becomes habitual, then of course it becomes a meaningless mantra. E perché se diventa un'abitudine, diventa un mantra senza senso. So sometimes you might find yourself saying rising, falling. E a volte vi potete trovare che dite salire, scendere. And then you suddenly are saying scendere when it's salire, salire when it's scendere. Però lo state dicendo esattamente sbagliato, salire quando è scendere e viceversa. Ah, so then you wake up, you see. E a quel punto ti svegli e dici, this is a waste of time. E quindi tempo perso. You have to do it deliberately. Dovete farlo deliberatamente. Now, for some people, when they try this technique, it feels as though the word is getting in the way of the experience. Per alcune persone, questa tecnica fa sentire come se le parole. le parole si frappongono all'esperienza. Ah, so what this is telling the meditator is that they are experiencing things through the conceptual mind. Ah, è quello che significa ciò, che deve, questa cosa deve dire al meditatore che lui sta facendo esperienza del mondo attraverso la mente concettuale. Ah, so you have to keep, as it were, looking through the word, or around the word, or over the word. Get yourself to the sensation. Allora bisogna girare intorno, sopra alla parola, per arrivare dentro la sensazione. And eventually the word recedes back, and it's like a little push to make you look more clearly. E alla fine la parola se ne va indietro. And it's like it's pushing you to look more closely. Ecco, e da dietro è come se ti spingesse a guardare più da vicino. Huh? So, if you use it wisely, it really is a great aid to the meditation. Se lo usate saggiamente, è veramente un grande aiuto per la meditazione. And if you can't find a word which is describing what you're doing, any word which is close enough will do. Se non trovate una parola che descrive esattamente, usatene un'altra che è abbastanza vicina. Ah, so even like feeling, everything, yeah? Feeling, seeing, just basic words will do. Parole di base come sensazione, vedere, ah. Sentire, vedere. Così, will do. So, these are the three parts of our technique, is this going slow, noting intentions, and noting. E quindi le tre parti di questa tecnica sono andare piano, notare le intenzioni e fare le note mentali. So, hopefully, when we do that, we can, as it were, break through our cultural biases. Sì. When we do that? Sì, quando facciamo questo possiamo andare a rompere i condizionamenti, i pregiudizi mentali. Ah, our social, our cultural. Culturali. Ah, culturali, eh? Forse. You said hopefully. Hopefully. Hopefully si traduce se tutto va bene, se tutto va bene possiamo farlo. So I can only hope my words have been of some assistance. E io posso solo sperare che le mie parole siano state vi siano servite. That I have not caused even greater confusion. E che non vi ho causato una peggiore confusione. And that you will be liberated from all suffering sooner rather than later. E che voi sarete liberati da tutte le sofferenze presto piuttosto che tardi. Prima piuttosto che dopo. Ah, grazie. Sadhu. Yeah. Sadhu. So,